Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma il minigolf non c'è alle Olimpiadi. Il minigolf no, mi sembra proprio di no. Però c'è il tiro con l'arco, la canoa, ce ne sono tanti. C'è anche il tennis. Ma la zumba non c'è. La zumba non c'è. Per qualche altra nostra collega appassionata. Qui in radio. Benvenuti a Möbius. Incominciamo con i titoli e poi puntata interamente dedicata alla scienza nelle Olimpiadi. Come si evolvono le performance atletiche? Che cos'è il passaporto biologico di uno sportivo? Ma soprattutto, perché le tenniste femmine urlano di più dei maschi? Questa è una puntata speciale di Möbius, interamente dedicata alla scienza delle Olimpiadi. E la tecnologia italiana è protagonista sul campo, ma anche sulle tribune e nelle piscine degli impianti olimpici di Londra 2012. Beh, dai, partiamo da quella più facile, insomma, quella di cui tutti si appassionano guardando la gara. L'atletica. L'atletica, sì, la corsa. La corsa. Quella più antica anche, forse. E con chi lo facciamo? Con un collega che per Radio 24 commenta appunto l'atletica, ma lui stesso è un preparatore di sportivi. Giorgio Rondelli, vabbè, gli ascoltatori lo conosceranno. Buonasera, Giorgio. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Quindi. Ma veniamo a questa edizione. Tu come la vedi? Cioè, a parte dal punto di vista sportivo, che sappiamo lo commenti spesso nelle trasmissioni dedicate allo sport, ma in questa trasmissione dedicata alla scienza e alla tecnologia, come vedi il rapporto tra questi atleti e la tecnologia, appunto, che ne sta cambiando proprio le prestazioni in maniera molto significativa? Beh, è un rapporto sicuramente sempre più stretto, perché è chiaro che le metodologie di allenamento sono migliorate, e però anche il contesto dove queste poi tecnologie vengono sviluppate è diverso. Per provare a pensare 1960 a Roma, alla pista su cui Berruti vince i 200 metri in tennisolite in 20,5, che vorrebbe dire 20,75 elettrico, o alle piste invece di ultima generazione, i manti sintetici, dove Usain Bolt corre in 19,18, vorrebbe dire che l'Usain Bolt di adesso, di là delle sue qualità, darebbe una quindicina di metri di distacco al Berruti del 1960, ma grazie anche, soprattutto anche ai manti sintetici, che tra l'altro però poi violentano muscoli, ossa, articolazioni, ecco perché i grandi dello sprint più di 2 anni di fila non riescono a correre ad altissimo livello. E poi soprattutto pensiamo a un Berruti che si allenava, quando andava bene, una mezz'oretta 3-4 volte la settimana, contro atleti che si allenano da 2 a 3 volte al giorno con poi supporti tecnologici e alimentari e di reintegro ad altissimo livello. Ecco, ma invece le tecnologie che vengono indossate dagli atleti, pensiamo tipo per esempio alle scarpe. Sì. Ma le scarpe hanno avuto un'evoluzione, particolarmente le scarpe chiodate sono leggerissime, si pensa a scarpe che hanno un peso non superiore ai 150 grammi, scarpe poi un po' secondo le distanze che fai, le scarpe della velocità hanno determinate caratteristiche, non hanno un tacco protettivo dietro, perché poi la corsa è soprattutto sugli avampiedi, le scarpe per il mezzo fondo invece sono più protette, perché è uno sforzo che si protrae nel tempo, da 15 minuti a mezz'ora, e poi ci sono le scarpe per la maratona, che però chiaramente senza chiodi, dove sarebbe meglio correre a piedi nudi, no? Si diceva. Ma voglio dire, alla Bebe Bichila, mi fai un assist, perché torniamo di nuovo a bomba all'Olimpiade, all'ultima Olimpiade dal sapore antico, quello di Roma, dove un certo Abebe Bichila, sergente della Guardia del Negus, vinse come primato del mondo a piedi nudi, 15, correndo sui San Pietrini della Via Appia, quindi un ricordo. 4 anni dopo vinse a Tokyo con delle scarpe sponsorizzate, facendo un nuovo record del mondo. Questa edizione qua invece si fa tanto parlare di doping, sia quello tecnologico che appunto quello degli strumenti che gli atleti usano, che forse esagerano e influenzano troppo le prestazioni, ma anche il doping, diciamo quello chimico, tradizionalmente classico, inteso, per cui si parla addirittura di un passaporto biologico dell'atleta. Beh, sì, il passaporto biologico dell'atleta è un passo in avanti enorme nella caccia al doping, nel senso che vengono, con dei numeri, vengono testate un po' tutti i parametri dell'atleta e poi possono essere controllati, anche perché gli esami antidoping e i risultati vengono tenuti, conservati almeno 8 anni, per cui si possono avere anche le classifiche che vengono, saltano per aria. Pensiamo una cosa che l'Italia, Anna Incerti, che 2 anni fa nella maratona agli europei di Barcellona arrivò terza, alla fine sono state squalificate sia la prima, la Balciunaite, per sostanze anabolizzanti, e invece la seconda, la Yulmanova, invece proprio perché nel suo passaporto biologico presentava delle discrepanze troppo ampie perché potessero essere frutto di situazioni naturali. Quindi indubbiamente vedere una finale olimpica e poi aspettare avere l'esito, la certezza che il primo, il secondo e il terzo rimarranno tali dopo 24 mesi, insomma, lascia un po' perplessi. Però è chiaro che la caccia al doping diventa sempre più sofisticata, perché poi il doping comunque corre sempre davanti all'antidoping, si trovano sempre delle nuove formule, nuove strategie, nuove forme di aggiramento. Ecco perché bisogna sempre cambiare i protocolli di controllo. E poi tu sei un profondo conoscitore, diciamo, di questo mondo, hai anche un blog sul Corriere della Sera in cui racconti un po' di curiosità, e una che mi piaceva raccontare era quella dei blocchi di partenza, cioè quei blocchi dai quali gli atleti iniziano lo sprint, e in particolare quello di Bolt. Quest'anno sarà un pochino, quello di Bolt e degli altri colleghi, adesso parlo di Bolt perché speriamo, insomma, faccia lo spettacolo di sempre. Hanno subito dei cambiamenti. Sì, hanno subito dei cambiamenti perché chiaramente dal punto di vista anatomico non tutti gli atleti hanno del numero di piedi esatto, quindi Bolt credo che abbia il 48, quindi il blocco di partenza praticamente non era quello ottimale per le sue caratteristiche. Infatti la polemica era perché lui si era lamentato del fatto che, avendo un 48, il suo piede non riusciva ad appoggiare bene e spesso aveva la partenza falsa. C'è anche da dire che qualcuno in passato, proprio per evitare di commettere partenza falsa o per eludere un'eventuale partenza falsa, addirittura evitava di appoggiare completamente il piede, per cui anche quando magari nell'atto in cui si spinge sui blocchi per uscire, veramente c'era un sensore che riceveva la partenza falsa. Quindi anche questo tipo di situazioni sono state vagliate, si cerca di mettere tutti gli atleti le migliori condizioni per l'uscita dai blocchi, che si sa uno dei momenti chiave, ricordando che 0-100 millesimi è il tempo di reazione sotto il quale viene segnalata la partenza falsa. Ma il blocco di Bolt deve essere diverso da quello di un altro corridore che magari al 43? No, non si può pensare. No. No. Infatti qua è stata la polemica. Non si può pensare che venga fatto un blocco per Bolt. Devono essere uguali. Sì, devono essere uguali. Credo che è stata ampliata lo spazio del blocco e allungato il blocco in maniera che poi sia funzionale e riesca a coprire un po' tutte le esigenze degli atleti al via. Grazie Rondelli. Grazie Rondelli. Buona Olimpiade anche a lei. Andiamo al traffico adesso, vediamo cosa succede sulle strade, poi torniamo e parleremo dei corpi, della forma dei corpi nelle Olimpiadi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, noi proseguiamo questa nostra carrellata che riguarda la scienza nello sport e stiamo arrivando a un elemento centrale, direi, che è quello... Il corpo. Il corpo. Eh sì, perché la tecnologia va bene, ma... Poi ci vuole qualcuno che la usi e che prenda anche la medaglia. Hai bisogno di un collo, sì, per esempio, no? Per mettere la medaglia. Chi è che abbiamo qua? Un fisiologo, il professor Pietro Enrico Di Prampero. Specialista di medicina per lo sport e professore di fisiologia all'Università di Udine. Buonasera. Buonasera. Buonasera Prampero. Senta, noi vorremmo iniziare da questa domanda, una chiacchierata con lei. L'altra sera abbiamo visto tutti su Sky, hanno fatto un bel documentario sulle Olimpiadi di Londra, ma quelle degli anni 50, credo del 54. E lì si vedevano dei corpi, insomma, rispetto a quelli di oggi, come dire, i corpi del cugino, della zia, il famoso garzone del panettiere che però va sempre in giro in bicicletta, quindi c'ha delle belle gambotte, a un certo momento va alle Olimpiadi e per tantissimo tempo è stato così, no? Sì. Questi erano gli atleti. Poi abbiamo incominciato invece a studiarli, a prepararli, a crearli questi corpi, e abbiamo visto dei cambiamenti. Però, per esempio, anche di recente, 3-4 Olimpiadi fa, se uno vedeva la finale dei 100 metri, c'erano dei robusti, piuttosto tarchiati, molto potenti. Improvvisamente arriva uno come Bolt. 2 metri. Lungo. E va più forte di tutti. Allora la domanda è, com'è che cambiano queste prestazioni? E possiamo aspettarci che voi fisiologi studiate anche magari dei corpi ancora più adatti, più mirati? Diciamo che ci sono vari aspetti su questo cambiamento morfologico. Da un lato ovviamente c'è le migliori condizioni socio-economiche. Se la gente non mangia o mangia poche proteine o crepa di fame, nessuno usciva grasso da Dachau, né ben muscolato da Dachau. Quindi sicuramente l'effetto socio-economico da un lato. Dall'altro la selezione. Oggi noi selezioniamo gli atleti vengono selezionati su dei gruppi di popolazione molto più grandi. Una volta era soltanto il gentleman inglese che poteva permettersi di fare lo sport a un certo livello, il dilettantismo assolutamente rigoroso che ovviamente oggi non esiste più. Terzo punto, i metodi di allenamento. I metodi di allenamento sono straordinariamente più raffinati e più precisi e permettono la muscolazione, come si chiama in termine tecnico, molto più mirata e decisa. Ultimo punto, che non è inutile che nasconderci dietro un dito, il doping. L'uso smodato di steroidi derivati dagli ormoni maschili, modificati in tutte le maniere per rendere il meno facilmente rintracciabili possibile, indipendentemente dal fatto che sicuramente per la salute degli atleti questo è deleterio. Lasciamo da parte l'etica dello sport, che ormai di etica tutti parlano ma nessuno la pratica. Ecco, tutti questi fattori sicuramente sono difficili capire quale sia il fattore predominante. Quanto alla sua domanda, noi riusciremo a trovare, certo ci sono, oggi c'è l'evidenza sperimentale nata dalla statistica e dall'analisi biomeccanica che sicuramente per la prestazione, per esempio sui 100 metri, è conveniente essere di taglia a livello di altezza, a livello di Bolt rispetto ai giovanotti di qualche... Anche poco tempo fa, in fondo. Anche poco tempo fa, esatto. Ma perché si fanno meno passi per arrivare al traguardo? Si fanno meno passi per arrivare al traguardo e c'è tutta una precisa analisi biomeccanica che consente di correlare, a parità naturalmente di potenza muscolare e di tecnica di corsa, l'atleta di taglia maggiore è leggermente avvantaggiato. Quando dico leggermente si tratta di piccolezze, perché se parliamo delle differenze tra i record di qualche anno fa e i record di adesso siamo dell'ordine di 1-2%. Però è abbastanza strano, per esempio nel calcio si dice che il giocatore brevilineo, no? Come Messi per esempio, anche Maradona, sono quelli più veloci, più scattanti, più agili, mentre invece su una corsa sui 100 metri viene fuori che uno come Bolt è perfetto, che probabilmente per il calcio invece non andrebbe bene. Certo, questo dipende naturalmente dal fatto che i 100 metri sono una corsa in linea, si parte, si accelera al massimo e si arriva dopo 100 metri. Nel calcio ovviamente c'è la partenza, il cambiamento di direzione, addirittura l'arresto immediato e naturalmente tutta la tecnica e la capacità di colpire la palla in modo appropriato, che invece nell'atletica di 100 metri sicuramente non c'è. E anche per quanto riguarda ad esempio i record, cioè ad esempio nella corsa, nei 100 metri si raggiungono dei record praticamente costanti e si migliora sempre, mentre negli altri sport è un pochino più difficile, o comunque questi miglioramenti non sono strettamente solo legati al fisico. Forse quello che lei dice è giustissimo, sono due aspetti. Uno, se pigliamo la corsa piana per esempio in atletica di cui stiamo parlando, o i salti in alto, i salti con l'asta, c'è una misura obiettiva e quantitativa precisa che taglia la testa al toro naturalmente. Dall'altro lato c'è l'aspetto tecnico, che anche nella corsa naturalmente è importante, ma negli sport biomeccanicamente complessi come il calcio piuttosto che il tennis, piuttosto che la scherma o sport di questo tipo, gioca un ruolo estremamente importante. Allora Di Pran, però approfittiamo della sua esperienza, specialista del medicina dello sport e di fisiologia, per proporle la domanda che settimanalmente ci arriva dagli ascoltatori. Questa settimana è un'ascoltatrice, per la precisione Miriam, che ci invia una domanda sul tennis, quindi disciplina olimpica che si giocherà in questi giorni. Se lei è d'accordo, le facciamo sentire la domanda di Miriam. Buonasera, la mia domanda è questa. Guardando le partite di tennis mi sono accorta che giocando le tenniste femmine, come non so, la Sharapova, urlano molto più dei colleghi maschi. C'è una spiegazione scientifica a questo fenomeno? Ecco, questo l'avevamo notato un po' tutti. Federico, tu che ti piace molto il tennis, insomma. Sì, ci sono un sacco di maschi che addirittura non fanno questi urli del tutto. Qualcheduno li fa molto moderati, le donne lo fanno quasi tutte e alcune è addirittura eclatante. Ecco, come la Sharapova magari sentiamola. La risposta scientificamente non la so. Posso naturalmente cercare di ipotizzare una risposta selvaggia sulla base di quel poco di fisiologia che... Ah, quindi non si è studiata questa cosa, perché lei la saprebbe senz'altro, è un punto ancora oscuro. Vabbè. Comunque l'urlo con una risposta selvaggia non direi mai che... è stata studiata, esatto. E lo stesso dicasi negli schermidori, non so se le schermidrici femmine urlino più dei maschi o no. Ah. Lasciamo da parte anche l'aspetto, diciamo, di moda. Ci faremo caso in questi giorni. Ecco, uno può fargli piacere fare l'urletto quando gli è riuscito un colpo bene e così, diciamo, l'aspetto di moda. Ma il problema è che negli sport in cui si usa le braccia, tipicamente il tennis o la scherma, per fare un colpo violento bisogna irrigidire tutta la parete toracica. Naturalmente si bloccano tutti i muscoli respiratori. Quando è finito il colpo bisogna ricominciare a respirare e quindi si fa uno scarico di aria che viene emessa dalle vie aeree superiori e può produrre un urletto, un suono, un qualche cosa. Perché nelle femmine questo può essere più che nei maschi? Perché per ovvie ragioni anatomiche, per la presenza dell'utero e degli organi genitali femminili, nelle femmine la respirazione è prevalentemente toracica. E non diaframmatica allora? Non diaframmatica, esatto. Quindi quando viene sbloccata, finito il colpo, viene sbloccata la respirazione, ecco che si fa un urlo che... più facile. Nei maschi invece la respirazione è prevalentemente diaframmatica, quindi c'è meno bisogno probabilmente di bloccare la struttura scheletrica toracica e quindi c'è meno questa urgenza di riprendere violentemente la respirazione alla fine del colpo. Quindi c'è un urlo più rilassato, insomma. Esatto, c'è un urlo più rilassato o non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Questo naturalmente è un'ipotesi selvaggia, non so se qualcuno mai si metterà lì a studiare. Vedremo. Dovete studiare. Grazie mille, professore. Buon lavoro. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Sempre per parlare di corpi e anche di imbarcazioni, andiamo al nuoto. Andiamo in acqua. Buttiamoci. E ci andiamo con Edi Emilio. Buonasera, Emilio. Buonasera. Lei è del MOX, che è questo centro del Politecnico di Milano che fa un sacco di calcoli e di modellistica sugli scafi, però sulle barche, in particolare barche a vela. Beh, avete vinto addirittura delle America Cup. La domanda però è questa nostra. Consideriamo il corpo umano come uno scafo, abbiamo questi nuotatori che oggi hanno in linea di massima, sia maschi che femmine, sostanzialmente lo stesso corpo, hanno le stesse forme. Ci stiamo domandando, ma potrebbero esserci, visto che ormai studiano i corpi come se fossero delle macchine, delle possibilità per migliorare ancora la prestazione andando a fare un mix tra costumi e corpo e andando a trovare, modellare dei corpi diversi? Il corpo in fondo è un'imbarcazione, c'ha problemi di galleggiamento e fluidodinamica. Ma in linea di principio sì, ovviamente con i vincoli strutturali del corpo umano sicuramente ci sarebbe la possibilità di migliorarlo e probabilmente lo si è visto anche con l'evoluzione storica dei corpi dei nuotatori. Diciamo, in linea di principio quando un nuotatore fa la sua performance, per semplificare le cose, ci sono quattro forze che agiscono sul suo corpo: il galleggiamento, appunto, la resistenza, la trazione, che è quella che gli permette di muoversi in avanti, e il suo peso. È un bilancio di queste forze che gli permette di andare avanti, di rimanere sul pelo dell'acqua. La forma del corpo ovviamente influenza come lui riesce ad andare avanti. Per esempio, una sezione più piccola oppone meno resistenza. Si è visto anche che storicamente il tronco dei nuotatori ha progressivamente subito una trasformazione verso forme più, diciamo così, sottili. Questo è sicuramente un'evoluzione che è molto importante. E anche la compressione dei costumi è fatta in tal senso. Esatto, la compressione dei costumi è fatta sicuramente in tal senso per minimizzare appunto la sezione che oppone resistenza all'acqua. Però invece la lunghezza del tronco aiuta a galleggiare meglio. La lunghezza del tronco aiuta a galleggiare meglio. Il tronco è quello che viene usato per galleggiare, perché il centro di galleggiamento è posizionato nella parte alta del tronco, e il fatto che il nuotatore riesca a tenere il suo corpo orizzontale, proprio dovuto al fatto che i nuotatori hanno questo tronco a forma di T più o meno, che permette di avere un galleggiamento ottimale rispetto a quello di un corpo standard, che è quello delle persone più normali. Beh, per esempio il famoso Mark Spitz invece era proprio un fuscello, no? Sì, ovviamente poi come in tutte le situazioni ci sono un po' le eccezioni, anche perché come dicevo prima è un po' tutto l'insieme delle quattro forze che poi fanno la performance. La forma in sé non è sufficiente per arrivare ad avere... Sì, ma faceva tempi molto più bassi. Sì, diciamo lì è una questione di tecnica, di sezione frontale, di spinta e ovviamente anche di forza. Se la sezione frontale bassa è accoppiata ad una forza molto alta, evidentemente si riescono a fare delle performance molto elevate. Non ditelo alla Pellegrini che i corpi dei nuotatori maschi assomigliano a quelli delle Infatti, femmine. Non era un bel complimento. Non era un bel complimento. Grazie Emilio. Grazie Emilio e buona ricerca. Buonasera. Morale, i nuotatori da record dovrebbero avere la forma di una canoa, delle super canoe affusolate di cui parleremo dopo la pausa. Fra poco. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tiro con l'arco, nel sì, quale abbiamo... ora come nel pentathlon, usciamo dall'acqua, abbiamo corso, usciamo dall'acqua e andiamo al poligono. Non al poligono, al... come si chiama? Adesso glielo chiediamo. Lo chiediamo, dai. Abbiamo in collegamento con noi, direttamente da Londra, Sante Spigarelli, buonasera. Buonasera. Lei è vicepresidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Lei stesso è stato ed è un arciere, ha avuto 5 record mondiali, insomma adesso non stiamo qua ad elencare il suo medagliere. Come si chiamano i bersagli? No, o dove si tira con l'arco? Cos'è? Non si chiama poligono? No, campo di tiro con l'arco. Campo di tiro con l'arco. Ecco, e invece le balle di fieno si chiamano? Quelle balle enormi? Sono paglioni. Paglioni. Paglioni, ecco. I paglioni. I famosi bersagli. Ecco, noi la contattiamo perché dentro il tiro con l'arco, tra l'altro voi non sapete, ma io ho un trascorso di tiro con l'arco. Pensa tu. C'è un sacco di tecnologia, a partire dai materiali, a partire ovviamente dalle frecce, che addirittura queste italiane sono state studiate da una macchina, una macchina che diciamolo in termini un po' maccheronici, spara frecce, studiata dagli ingegneri della Ferrari. È corretto Spigarelli? Sì, allora diciamo che le tecnologie più avanzate, quindi l'utilizzo di materiali quali carbonio e altre fibre sintetiche, sono ampiamente presenti nelle strutture degli archi, nelle parti flettenti, nonché materiali molto sofisticati e avanzati fanno parte della struttura della corda, e anche le frecce, che sono l'elemento assolutamente più importante dell'attrezzatura di un arciere, sono composte, sono insieme di carbonio e alluminio. Ce ne sono anche di tutto carbonio di altissima qualità, ma quelle più utilizzate in assoluto sono delle frecce che hanno un'anima interna di alluminio rivestita di carbonio. Ma perché, scusi, un arciere può scegliersi lui che tipo di freccia? Sì, le frecce sono libera possibilità di scelta, nel senso che non solo può, ma deve assolutamente scegliere le frecce tra una gamma molto ampia, perché la freccia è quanto di più personalizzato ci sia nel rapporto tra misura antropometrica dell'arciere, tecnica di tiro e materiale utilizzato per l'arco, quindi un arco più potente con un arciere che... Faccio un'esemplificazione, un arco più potente con un arciere più alto, quindi con delle leve, con delle braccia più lunghe, usa frecce più lunghe che subiscono una spinta, la freccia viene flessa dalla spinta dell'arco e questa flessione deve essere estremamente controllata e corretta in modo che la freccia percorra un percorso più breve possibile tra il punto di tiro e il centro del... Ma tra l'altro quello che conta è la precisione, non la potenza. Sì, questo è un compromesso. Infatti l'arciere poi sceglie un giusto compromesso tra la potenza che riesce a controllare nelle condizioni più precarie, quindi vento, pioggia, freddo, stanchezza, stress. E infatti veniamo alle frecce che in questi giorni stanno usando i nostri arcieri. Non sono frecce a caso, insomma, sono state studiate con la macchina che dicevamo prima. Intanto c'è proprio una scelta delle frecce in base appunto alle misure antropometriche dell'arciere, alla potenza utilizzata e alla tipologia di frecce, diciamo, sul mercato. Dopodiché il problema qual è? Esemplifico la cosa. Se usassimo dei ramoscelli, delle frecce in legno, per dire, sei ramoscelli in legno identici in natura non esistono. Quindi le frecce in legno sono molto disomogenee una dall'altra. Sceglierne sei uguali è quasi impossibile, tant'è vero che le gare prima dell'avvento delle tecnologie, dei materiali più avanzati, consistevano nel tiro di una freccia. Questa è la cosa molto importante, che le frecce debbono flettersi, piegarsi sotto la spinta della forza dell'arco in maniera esattamente identica una dall'altra. Per far questo le case costruttrici hanno migliorato le qualità, ma poi gli arcieri hanno bisogno di verificare questa capacità delle frecce di raggrupparsi, cioè di andare una attaccata all'altra. Da questo nasce, con la collaborazione con i Ferrari e federazioni, la necessità di avere a disposizione qualcosa che per il momento dà soltanto la possibilità di tirare le frecce e verificarne la consistenza, l'essere uguali una all'altra, ma la macchina che è stata costruita dalla Ferrari, dagli ingegneri della Ferrari, è proiettata ben più in là e all'inizio di questo progetto, di questa cosa, abbiamo studiato la possibilità che la macchina sia in grado di valutare tutte le attrezzature dell'arciere, quindi arco, parte centrale, flettenti, corde, stabilizzatori, mirini e infine anche la messa a punto dell'insieme arco-freccia. Siamo partiti da un progetto di un nostro ingegnere arciere, Francesco Colandrea, di una macchina già costruita in Italia, e poi gli ingegneri della Ferrari hanno perfezionato, ristrutturato e hanno creato questa nuova macchina che abbiamo utilizzato in gran parte per selezionare le frecce degli arcieri. E a Rio de Janeiro manderete la macchina a questo punto? A Rio de Janeiro, se riusciremo e voi la guardate a farla passare per italiana, la truccate d'arciere. Sì, l'ideale è proprio quello di riuscire a far sì che questa macchina sia in grado di ripetere in maniera misurabile gli errori che gli arcieri commettono durante l'azione del tiro. Una macchina progettata per sbagliare. E quindi sì, è fatta proprio per sbagliare, ma in maniera misurabile, per cui a parità di errore un certo tipo di attrezzatura di arco, freccia, stabilizzazione, flettenti o di tipo di messa a punto dell'insieme, di tutto l'insieme, determina uno spostamento di 10 centimetri. Lo stesso tipo di errore misurato, quantificato, con un'altra attrezzatura ne dà 15 e quella da 10 è migliore. Va bene, grazie Spigarelli, in bocca al lupo davvero per questi giorni di gara per la sua squadra e insomma ci risentiamo allora a Rio de Janeiro. Perfetto, d'accordo. Grazie per l'appuntamento. Secondo me la pagaiata asincrona è quella che fa girare che la giri sempre in tondo. Non dovrebbero vincere. No, però non dovrebbe neanche essere così, anzi si spera, perché insomma noi puntiamo tanto sulla nostra Josefa Idem e quindi dovrebbe funzionare la sua super canoa a razzo, non dovrebbe girare su se stessa. Ma perché parliamo di questo? Lasciamo gli arcieri e andiamo invece ad occuparci delle tecnologie legate alle canoe, quindi alle gare di canoa e in particolare la pagaiata che utilizzeranno i nostri atleti in gara è cosiddetta asincrona ed è stata studiata nei laboratori del CNR, per la precisione all'Istituto di Architettura Navale del CNR, dove a suo tempo si studiò anche Luna Rossa. Quindi in collegamento con noi adesso c'è il direttore dell'istituto, Emilio Campana, buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco, avete studiato questa pagaiata asincrona, che come dice Federico dovrebbe girare in tondo, invece non è vero, serve per dare più propulsione, non so come si com'è, dice. Com'è, ce la spiega? Sì, è molto semplice come concetto in realtà. Quando l'atleta, il canoista, sta pagaiando, nel momento in cui immerge il remo in acqua per scaricare la potenza e diciamo muoversi, la canoa, per effetto diciamo di equilibrio dinamico, affonda leggermente in acqua, affonda diciamo maggiormente rispetto al suo stato naturale di equilibrio tra il peso dell'atleta e la spinta al galleggiamento dell'acqua. Va un po' giù, un centimetro o due, una roba del genere. Sì, quando va un po' giù aumenta la superficie della canoa che si bagna. E beh, certo. E quindi aumenta la resistenza all'avanzamento della canoa stessa, no? Perché la resistenza all'avanzamento è legata all'attrito dell'acqua sulla canoa, sui fianchi della canoa e sul fondo della canoa. Quindi è come se io offrissi una maggiore resistenza all'avanzamento. Allora, se la pagaiata avviene contemporaneamente, proprio esattamente allo stesso momento da tutti gli atleti dell'equipaggio, quindi K2, K4, la canoa affonda di più. Se invece c'è un leggero sfasamento temporale, un ritardo, esattamente, fra l'ingresso in acqua e il movimento del primo atleta, del secondo, del terzo, del quarto, questo produce un valore medio dell'affondamento minore e quindi in media, diciamo, c'è una minore resistenza all'avanzamento. E ognuno dei quattro non è in sincronia con gli altri, per esempio, nel caso di quattro. Esattamente. Oh. Si tratta, diciamo, di immaginare un concetto, se vuole, in parte controintuitivo, no? Noi siamo abituati, adesso parliamo del canottaggio, a vedere gli equipaggi con il timoniere che dà il ritmo e infatti devono fermare a quel ritmo. Ecco, esattamente, il concetto è controintuitivo, quindi se invece di andare esattamente tutti allo stesso ritmo, andiamo allo stesso ritmo ma con un piccolo sfasamento, questo corrisponde a ottenere un vantaggio in termini di diminuzione della resistenza all'avanzamento del mezzo, senza nessun trucco, senza aver cambiato materiali. Ma nessuno ci aveva mai pensato prima. Guardi, io onestamente di canoa non vi ero mai occupato prima, quindi io non glielo so dire, però gli allenatori della squadra olimpica della federazione sono stati molto, diciamo, contenti di provare questa tecnica. Non è qualcosa che mi risulti sia... È una prima, dai. Sì, insomma, non saprei esattamente. È anche più coreografico, perché è una specie di ola. Sì, ora ovviamente questo ha una sua difficoltà di realizzazione. Infatti. Quindi lo spostamento deve essere piccolo e non è semplice. Noi, diciamo, quello che abbiamo cercato di fare in istituto è quello di lavorare cercando di sostituire le sensazioni dell'atleta, che sono molto spesso legate alle sue condizioni fisiche, al metabolismo, alla giornata, con delle misure oggettive. Abbiamo lavorato non soltanto sul ritmo della pagaiata, ma anche, ad esempio, strumentando la pagaia con degli estensimetri, cercare di capire, per esempio, la lunghezza ottimale del remo per ciascun atleta. E in quel caso non è standard la lunghezza del remo? No. Non è definita dalla federazione, ad esempio? Sì, può non essere standard. Può non essere all'interno di un certo intervallo. Ma come fanno questi singoli atleti a mantenere costantemente una differenza di quanto? Qual è il ritardo uno dall'altro? Il ritardo sono pochi decimi di secondo. Ma impressionante, come fanno? Come fanno a mantenerlo? Forse all'occhio non si coglie, se non lo vediamo in TV forse non lo cogliamo. È difficile, molto difficile effettivamente da cogliere, diciamo, bisogna saperlo, bisogna guardare con attenzione. Allora guarderemo con attenzione. Non è neanche semplice da riuscire a realizzare, certo, esattamente. E in laboratorio cosa avete fatto? Avete costruito dei modelli? Cioè, vi siete messi a pagaiare? Cosa avete fatto? No, noi abbiamo degli impianti sperimentali molto grandi in cui facciamo le prove di tutti i mezzi, diciamo, marini che voi potete immaginare, di superficie o sotto la superficie, quindi dalle barche di Coppa America al traghetto che vi porta nelle isole, dalle navi della Marina Militare ai sommergibili, dai motoscafi per competizione ai grandi yacht di lusso. Alle canoe. E quindi le canoe le possiamo provare al vero, quindi abbiamo provato le canoe vere, che gli impianti sono grandi. Il nostro impianto principale, il bacino numero uno, è lungo mezzo chilometro. Sì, lo so, è uno dei più grandi. Ma con delle pagaiate automatiche avete generato delle cose del genere? No, c'erano gli atleti. C'erano proprio gli atleti? Sì. Poi in passato abbiamo lavorato anche su altre parti, diciamo, per esempio su dei timoni, provando diversi materiali in collaborazione con la Ferrari, questo nelle precedenti edizioni di altre competizioni. Anche qua, come torna per la Ferrari, rientra sempre. Ne abbiamo appena parlato per gli arcieri, ma comunque sì. Sì, le forme dei timoni e i materiali dei timoni, cercando di alleggerire la canoa il più possibile, ma anche l'idea stessa, appunto, di strumentare la pala invece di affidarsi alla sensazione dell'atleta, che non è un dato oggettivo, diciamo che per noi ingegneri è un dramma, se c'è un dato non oggettivo non sapete più cosa fare. Esattamente, quindi invece in questo modo avevamo degli elementi concreti, certi, ripetibili in laboratorio, che per fortuna ha le dimensioni sufficientemente grandi da contenere, quindi la canoa, l'atleta e tutto il resto, però le condizioni sono controllate, l'acqua è calma, c'è assenza di vento perché gli impianti sono chiusi, quindi tutto è ripetibile, è possibile capire qual è l'incertezza delle misure, è possibile capire quindi il grado di affidabilità delle misure ed è possibile ricostruire effettivamente qual è la potenza scaricata dall'atleta con un remo fatto in un certo modo, con una lunghezza della remo fatta in un certo modo e così via. Può cambiare al limite l'umore dell'atleta? Stanco di ripetere lo stesso esperimento? No, però credo che il rapporto con gli atleti sia per noi sicuramente stato interessante. È il bello del nostro lavoro, quello di confrontarsi partendo dalla matematica con una cosa concreta, oggettiva, reale che diventa una persona a un certo punto. Certo. Sì. Grazie Campana, allora buon lavoro davvero. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Traffico, velocemente, poi torniamo a Londra e alle Olimpiadi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, torniamo a parlare di sport, ma questa volta delle strutture sportive. Quanto la tecnologia italiana è entrata anche negli impianti che vediamo in questi giorni in TV. Abbiamo due casi interessanti. Partiamo dalle piscine, che sono state costruite, adesso sentiremo quante e in che modalità negli impianti per i nuotatori che stanno gareggiando a Londra. Sono le piscine Castiglione, quindi di una società di Castiglione delle Stiviere, italiana. In collegamento con noi c'è l'ingegnere e dirigente della società Castiglione, Annalisa Colletto. Buonasera. Buonasera. Buonasera Colletto. Buonasera. Chiediamo a lei insomma di descriverci un po' che tipo di strutture avete portato fino a Londra. Cioè tutte le piscine le abbiamo fatte qui, partono dall'Italia? Allora, noi ci siamo occupati di 7 vasche, di cui una vasca verrà utilizzata per le competizioni da pallanuoto e le altre 6 verranno invece destinate all'allenamento. Tutte le 7 piscine sono temporanee. Noi utilizziamo appunto una tecnologia proprietaria che si chiama Mirta e consiste nel imbullonare tra loro dei moduli in acciaio inox con una laminazione in PVC a caldo. Questo significa che sono dei pannelli, dei moduli che possono essere attaccati per quelle olimpiche o anche per vasche più piccole. Sì, assolutamente, sono vasche modulari, ogni pannello è largo 90 cm ed è alto quanto serve, per cui è possibile realizzare vasche di qualunque forma e dimensione. Questa caratteristica rende possibile poi smontare le vasche e rimontarle altrove anche in diverse dimensioni. Nel caso di Londra cosa succede? Allora, intanto che piscine, di che dimensioni le avete progettate? Allora, le nostre vasche sono 3 da 50 metri e 4 da 33 e verranno poi appunto smontate e rimontate in circa 20 comuni diversi, pertanto le dimensioni ovviamente saranno ridotte rispetto a queste. Naturalmente è molto più semplice utilizzare una vasca più piccola che una vasca più grande per successivi usi, diciamo, e non sappiamo ancora però a quali comuni saranno destinate. È interessante capire proprio questo aspetto, ovviamente quelle olimpiche hanno delle dimensioni piuttosto ingenti, dopo potranno essere utilizzate per le piscine semplici, comunali, quelle che noi siamo abituati a vedere nei nostri comuni. Esatto, nei comuni si vedono frequentemente vasche da 25 metri, per cui questo è quello che verrà più facilmente ricostituito. Le vasche da 50 metri difficilmente troveranno una collocazione così come sono. Ma i comuni a cui lei fa riferimento sono comuni italiani oppure sono state acquistate dai londinesi, dagli inglesi e sono comuni inglesi? Allora, il Comitato Olimpico si è impegnato ad utilizzarle in 20 comuni che per comodità saranno in Inghilterra. Ah, resteranno lì, quindi voi le smonterete e le rimonterete. No, perché poi Colletto, parliamo di una commessa di circa 10 milioni di euro, quindi un bel patrimonio che rimane. Effettivamente per noi sì, è stata una commessa importante. Ecco, consideri però che non comprende solo le piscine, ma anche le tribune, quindi questo è il valore totale della commessa. Senta, queste piscine sono modulari, però poi voi dovete fornire anche tutto il sistema di purificazione dell'acqua, no? Tutte queste cose, cioè è completo il vostro servizio. Sì, naturalmente una vasca comprende sempre la parte filtrazione con filtri a sabbia e disinfezione che anche in questo caso vengono realizzate per Londra e successivamente potranno essere o meno impiegate, nel senso che comunque anche in questo caso si tratta di impianti separati, per cui la decisione dei comuni potrà cadere sull'utilizzo completo o parziale. Va bene, allora faremo attenzione, le guarderemo in TV. Sì. Grazie Colletto, buon lavoro. Grazie altrettanto, arrivederci. finite le Olimpiadi si smonta tutto. Sì, tutto. Dalle piscine alle tribune. Alle tribune, dove la gente si siede. Si sedeva e si prepara ad andare a sedersi in un altro posto. Qui c'è della roba italiana, eh? Sì, c'è una ditta italiana di Brescia che è la Metra. Parliamo con Alessandro Giacomelli, direttore vendite della sezione industria. Buonasera Giacomelli. Buonasera. Buonasera. Allora, queste strutture per gli stadi, ci spieghi bene di che cosa si tratta? Sono le tribune smontabili? Esattamente, sono delle strutture che hanno due compiti fondamentali. Uno è l'impiego strutturale e il secondo invece è l'allestimento delle varie panche che ospitano poi i seggiolini sui quali si sedono gli spettatori. In questo caso noi abbiamo fornito componenti in alluminio estruso che poi sono stati lavorati, sono più prodotti. Come dicevo prima, c'è la struttura portante che è in lega strutturale, quindi un impiego strutturale molto importante e impegnativo, e poi ci sono invece dei profili tubolari più simili a delle sponde che vengono sempre montati in maniera modulare, che poi a loro volta ospitano i seggiolini degli spettatori. Ed è tutto in alluminio, come mai l'alluminio? Era uno dei requisiti fondamentali dell'appalto e quindi anche il nostro cliente ha scelto immediatamente l'alluminio, non ci sono state delle discussioni su altri materiali, perché prima di tutto con le dimensioni che erano richieste, perché sono dei palazzetti piuttosto importanti, avevano bisogno di studiare delle forme complesse che potessero svolgere questa duplice funzione strutturale estetica, e quindi l'alluminio si prestava benissimo per questo tipo di specifica. In più questi palazzetti sono dei palazzetti che sono montabili sul posto, quindi noi abbiamo fornito la nostra azienda cliente direttamente in cantiere e non ci sono stati dei passaggi di mezzo, quindi sono stati montati sul cantiere in pochissimo tempo. Infatti noi il contratto l'abbiamo firmato a gennaio, abbiamo iniziato la fornitura tra febbraio e giugno. Quanti palazzetti più o meno avete Sono 14 fornito. Stadi. 14 stadi? Sì. Cosa si gioca in quegli stadi? Sono tutti gli sport come la pallavolo, pallacanestro, le gare ostacoli con i cavalli. Quanta gente deve stare? Infatti nello stadio principale, anche sono tutti quelli che sono intorno alla città. Ma quanta gente devono tenere queste tribune? Sono modulari, con gli stessi prodotti hanno creato degli stadi più piccoli da 5-10 mila posti, arrivando anche a 15-20 mila posti. La cosa interessante è che una volta finite le gare queste tribune vengono smontate e portate dove? Ve le riconsegnano, non credo. No, non ce le riconsegnano, hanno già preso un appalto per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ah, migrano. E sicuramente le sposteranno, faranno un periodo di manutenzione, perché sicuramente nello smontarle ci sarà del materiale che dovrà essere reintegrato, ma secondo i loro calcoli una buona percentuale, più della metà, verrà riutilizzato per le Olimpiadi appunto del Brasile. E quindi in pratica uno può prenotare lo stesso posto per più Olimpiadi. Dipende dagli organizzatori, sarebbe interessante. Seggiolino personale. Ma non due in uno, visto quel periodo di crisi che c'è, potrebbe essere una promozione interessante. Senta Giacomelli, con le tribune ci sono spesso problemi di sicurezza. Voi com'è che tipo di tecnologie riuscite a inserire per avere proprio il massimo? Il massimo noi lo garantiamo con gli standard produttivi che abbiamo all'interno del nostro stabilimento, perché quando produciamo questi prodotti bisogna seguire delle procedure di qualità molto stringenti, e infatti non a caso noi siamo la seconda azienda in Italia ad avere la certificazione CE. Per impieghi strutturali dell'alluminio bisogna avere questa certificazione, altrimenti non passano l'eurocodice. Quindi è nella produzione che ci devono essere tutta una serie di prassi di sicurezza tecnologica, perché poi ci si avvale dalla progettazione alla consegna. È tutta una filiera, noi siamo verticalmente integrati, abbiamo la fonderia che per il 50% della produzione ci soddisfa internamente. E quindi potete anche riciclare l'alluminio? Assolutamente, infatti questo contratto è stato preso anche perché abbiamo la possibilità di ricevere tutto il materiale che verrà rottamato dal nostro cliente, in modo che lo possiamo fondere e poi ridarglielo in trasformazione. Rilavorarlo. Va bene, grazie Giacomelli e complimenti. Insomma, questa commessa vi ha fatto guadagnare circa 4 milioni di euro. Insomma, buon lavoro e alla prossima. La ringrazio. Arrivederci. Buonasera. Giacomelli. Meteorologia ed Olimpiadi, microclima sui campi di gara. Ha senso tutto ciò? Ve ne parla Chiara Bicocco. Sì, Federico, infatti queste Olimpiadi sono peculiari anche dal punto di vista climatico e una delle gare che più è influenzata dai cambiamenti meteorologici è la gara di vela. Per questo la nostra federazione, la Federazione Italiana di Vela, ha deciso per la prima volta di appoggiarsi al CNR nazionale per avere dei modelli previsionali rigorosi e quindi una collaborazione tra due istituti, in particolare l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna e l'Istituto di Scienze Marine di Venezia, si sono messe insieme per dare supporto alla nostra squadra. Qui con noi stasera c'è Andrea Buzzi, che è ricercatore dell'ISAC, appunto l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Buonasera Buzzi. Buonasera. Come dicevo, avete in queste ore, anzi ormai è da mesi quasi che ci lavorate, messo a punto un piano meteorologico per assistere, come dire, la nostra Federazione Italiana di Vela. Senz'altro, noi abbiamo messo a disposizione i nostri modelli di previsione che elaboriamo da molti anni e che vengono anche utilizzati per l'Italia e il Mediterraneo, per appunto assistere la squadra fornendo i nostri dati contemporaneamente anche all'Istituto Gemello ISMAR, Istituto del Mare, che si occupa di ricerca sul mare, che elabora previsioni sulla base anche dei nostri dati del vento, di correnti, in particolare nell'area dove si svolgeranno le regate, che sono molto importanti assieme al vento per decidere spesso dell'esito di queste gare. È un progetto che dura da mesi, insomma, perché voi dovete studiare bene la zona, quindi anche i parametri che influenzano in qualche modo, che possono influenzare queste gare. Questo ci ha dato delle soddisfazioni perché gli atleti hanno detto che questa informazione è stata spesso determinante, anzi addirittura hanno citato una gara preolimpica in cui dicono che hanno preso una decisione basata solamente sulle nostre previsioni e questo li ha fatti vincere quella particolare gara, che non è fondamentale naturalmente rispetto alle gare olimpiche, ma comunque è stata una soddisfazione. Staremo a vedere, insomma. Quindi, a vedere. Le informazioni che fornite loro sono principalmente sul vento e anche le correnti marine, perché la zona in cui si vengono disputate le gare è un golfetto di Weymouth, se non sbaglio si chiama, è un golfo un po' particolare, con forti correnti e anche dei moti di marea piuttosto importanti. Sì, siamo nella Manica, nella parte occidentale, quindi sappiamo che in quella zona lì le maree sono molto elevate, l'escursione è oltre 2 metri di altezza del livello del mare. Questo produce, assieme anche ai forti venti che si verificano, forti e variabili, naturalmente a tempi molto brevi, producono variazioni della corrente marina nella zona di gara molto importanti, oltre il metro al secondo, quindi diciamo che una barca a vela ne risente in maniera importante. Insomma, naturalmente poi sappiamo che in quella zona il tempo è molto variabile, sembra che anche in questo periodo siamo in presenza di un'estate piuttosto perturbata, a differenza che da noi, e quindi è molto importante per gli atleti avere le variazioni di vento a ritmi estremamente rapidi. Noi forniamo previsioni praticamente ogni ora. Ecco, del ogni vento, ora voi fornite le vostre, sì, i vostri parametri. I dati, sì. E loro cosa fanno? Li ricevono e si studiano, non so, la mappa del territorio, si studiano la traiettoria, quello che potrebbe essere il percorso, insomma, più veloce. Sì, io non sono esperto di vela, però sicuramente prima della gara c'è un briefing in cui gli atleti vengono informati delle condizioni presenti del vento osservate e delle condizioni previste nel periodo successivo di durata della gara stessa, per cui soprattutto se sono previste variazioni, e naturalmente se queste variazioni previste, come dire, si verificano, l'atleta stesso vede che comunque tendono a verificarsi durante la gara, allora diciamo pone una fiducia su questa variazione, può anche decidere durante la gara stessa, a parlare di gare diciamo durata oltre un'ora, insomma, di cambiare eventualmente strategia. Ecco, infatti, perché diciamo voi fornite dati ogni ora, ci diceva, quindi modelli comunque dinamici, con la possibilità appunto di far cambiare idea proprio durante la gara lo sportivo, il velista. Sì, subito prima e durante, naturalmente questo è un elemento di decisione abbastanza importante che negli anni precedenti certo non era a disposizione, solo che i modelli sia meteorologici che marini naturalmente si sono evoluti, i dati di analisi diciamo sono migliori attualmente, quindi è un'attività che diciamo è diventata importante negli ultimi anni. Perché Buzzi, è la prima volta che l'Italia, la Federazione Italiana di Vela ha questo sostegno forte scientifico? Sì, diciamo che si sono resi conto che già altre squadre avevano questo tipo di supporto, per esempio durante le Olimpiadi di Pechino 4 anni fa, e quindi si sono attrezzati, si sono rivolti a noi avendo individuato nel CNR competenze adeguate a questo tipo di richiesta, insomma. Va bene, allora auguriamo sicuramente buon vento alla nostra squadra di velisti. Beh, speriamo che non rimanga. Ovviamente le previsioni sono sempre soggette a errore. Va bene, grazie Buzzi. La ringrazio, buonasera. Era l'ultima puntata di luglio. L'ultima puntata di luglio dedicata alle Olimpiadi e dalla prossima parliamo di estate? Boh, no, parliamo un po' di tutto. Ci sarà una domanda sulle zanzare, vi preallerto. Ok, però siamo qui, diciamolo, siamo tutto qua. Agosto. Live. Finisce luglio, ma non Mebius. Esatto. Non Mebius. Buon weekend. Buona settimana a tutti e a tutte. E buone Olimpiadi. E buone Olimpiadi, ciao. Certo.